Uomini e profeti. Questioni. Una buona giornata da Gabriella Caramore. Ultime due puntate prima della fine del 2014. Oggi non trovate al microfono Benedetta Caldarulo alla conduzione di questa puntata come previsto, perché è colpita da un grave impedimento, ma sarà senz'altro con noi e con voi a partire da metà gennaio circa, ritornando alla nostra programmazione. Noi l'aspettiamo tutti con calore e con affetto. E dunque sarò io a proporvi la storia che avevamo pensato insieme, la storia di un luogo, di uno spazio e anche di un tratto di storia italiana, la storia della cittadella o pro civitate cristiana, cioè in favore di una civiltà cristiana che ha sede ad Assisi, che fu fondata nel 1939 da Giovanni Rossi e che a partire dal dopoguerra, in particolare negli anni 50 e 60, divenne un punto di riferimento importante per figure non solo spirituali ma anche per intellettuali non necessariamente cattolici o credenti, mischiando appunto interessi spirituali e interessi culturali e dando luogo a uno spazio di ricerca molto fervido. Ma come spesso accade, come abbiamo notato tante volte in queste storie che abbiamo raccolto, quando mutano i tempi storici, alcuni luoghi reggono con più fatica lo sviluppo dei tempi e allora occorre trovare energie nuove, rinnovare i progetti. Allora ci sono queste nuove energie per Cittadella? Qual è lo spirito del tempo a cui oggi si trova a rispondere? Noi ne parliamo in primo luogo, dopo subito faremo una storia anche di Cittadella, con Tonio Dell'Olio, che tra l'altro abbiamo sentito molte volte e che fa parte oggi della Pro Civitate Cristiana, è responsabile di tante altre cose, ma anche in particolare del settore internazionale di Libera, l'associazione dei nomi e numeri contro le mafie. Perché, essendo entrato più di recente a far parte di questa situazione, ci può dare così un aspetto più legato alla contemporaneità. Dopo sentiremo Chiara De Luca, che è la presidente di Cittadella, Anna Nabot, responsabile della galleria, che è un aspetto importante di Cittadella, e poi avremo anche uno storico, Guido Kreinz, per parlare del luogo che ebbe la Cittadella nella cultura italiana degli anni 60 e 70. Allora intanto saluto Tonio Dell'Olio, buongiorno a lei Dell'Olio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, lei entrando così, naturalmente era un'istituzione che conosceva già molto bene da molto tempo, ma qual è la situazione che ha trovato oggi nella Cittadella? Come la descriverebbe? Cioè, i problemi che ci sono, le forze vive, le necessità, i desideri? Le necessità sono tante, però nello stesso tempo la Cittadella mantiene questo spirito originario che io ritengo abbia avuto molta attenzione anche a rinnovarsi. C'è questo spazio di libertà, potrei dire, no? Di libertà nello spirito, per cui la Cittadella mantiene questo luogo, preserva in qualche modo questo luogo che è luogo di incontro, di dialogo, di confronto, di riflessione culturale e spirituale insieme. Il ricambio generazionale di cui c'è bisogno, la continua necessità di adottare linguaggi nuovi, di essere presenti su social network o comunque di confrontarsi anche in altri spazi che non siano quelli fisici della Cittadella stessa, di Assisi, che comunque resta come momento evocativo forte e profondo, questa è una delle necessità sicuramente più avvertite per poter andare incontro, secondo lo spirito originario della missionarietà, andare incontro anche alle necessità, ai linguaggi, alle sensibilità anche del mondo odierno. Ecco, adesso tornerà a raccontarci della sua esperienza, però allora forse abbiamo bisogno di fare un po' di storia. Ecco, e su questo invitiamo a parlare Chiara De Luca, che è la presidente della Cittadella. Buongiorno Chiara De Luca. Buongiorno. Allora, dunque, intanto con quale intento era nata Cittadella, fondata da, come dicevo prima, Giovanni Rossi nel 1939? Che cosa aveva così motivato il sorgere di una nuova piccola istituzione all'interno poi anche in particolare del mondo di Assisi? Ma l'essere in Assisi è soltanto una circostanza, sì, sopravvenuta. L'idea nasce dal cuore, dalla mente di Don Giovanni, sì, che era stato però per molti anni segretario del beato cardinale Andrea Carlo Ferrari a Milano. Sappiamo come il cardinale fosse attento al mondo della cultura, al mondo dei poveri, e Don Giovanni ha assorbito questa spiritualità del suo cardinale. Ecco, però veniamo un po', diciamo, al di là anche delle intenzioni soggettive. Siamo nel 39, quindi siamo un anno prima dell'inizio della seconda grande guerra, quindi c'è una situazione di crisi. La Chiesa evidentemente ha anche una sua sofferenza, il mondo della cultura pure, e qua e là ci sono grandi figure che cercano di tenere insieme qualcosa di vivo, qualcosa di forte, di parlare una parola che riesca a intercettare i linguaggi del mondo. Giusto? Senz'altro. E difatti il linguaggio del mondo in quel momento era anche di grande contrarietà al messaggio cristiano, alla vita cristiana dei fedeli qui in Italia. C'erano coloro che erano molto avversi. Sì, però poi c'era anche invece un mondo cristiano molto fervente, molto anche effervescente, a cui era avversa invece una certa forma di chiesa. Però sì. Ecco, fermiamoci proprio sui problemi. Che cosa si agitava in alcune di queste anime? La necessità di dialogare con il mondo, di portare il Vangelo in primo piano. Sì, l'evangelizzazione, cioè il portare il messaggio cristiano, partiva sempre comunque da associazioni cattoliche, dalle sacrestie, si può dire. Don Giovanni è stato colui che ha invitato i giovani che chiamava come portatori del messaggio, li mandava invece come laici in nome del battesimo che tutti abbiamo ricevuto. Allora, questo elemento della laicità è molto importante, perché appunto, ecco, essere, sì, la Chiesa naturalmente c'è, è una realtà, è una presenza, ma quello che conta è portare la parola a tutti, e proprio per questo probabilmente hanno gravitato intorno alla cittadella le grandi figure del cristianesimo del tempo. Parlo anche adesso del dopoguerra, ma da Ernesto Balducci a Don Tonino Bello, e poi non soltanto cristiani, Lucio Lombardo Radice, Antonino Caponnetto, il cardinale Pellegrino, Sabino Acquaviva, Roger Garodì, Raniero Lavalle, Paolo Giuntella, ecco, insomma, tutte le grandi figure un po' della sinistra cattolica e un po' della sinistra tout court, in un certo senso. Perché la cittadella è stato un crocevia appunto laicale, dove tutti erano liberi di portare la propria esperienza, le proprie idee, la propria fede. E il luogo di confronto, proprio come crocevia, è il luogo ideale per l'incontro, per il dialogo. Una delle parole basilari della nostra realtà è appunto essere persone dialoganti, specialmente con i più lontani dalla fede. Ecco, ancora, da una fede esplicita. Va bene. Allora, torniamo a Tonio Dell'Olio. Lei in che anni ha conosciuto, eventualmente frequentato, la cittadella Dell'Olio? Io ho iniziato a frequentarla negli anni 80, inizi anni 90, insomma, negli anni della mia giovinezza, soprattutto con i convegni giovani, ma l'ho frequentata anche perché mi ha visitato. Io non voglio sottolineare in maniera particolare, intanto dal punto di vista storico, pensate che cosa significhi negli anni 40 e 50, non soltanto dei laici, ma delle laiche, erano impegnate nelle missioni, cioè andavano ad occupare i pulpiti, andavano a parlare alla gente nelle periferie, diremmo oggi. In quegli anni andavano a parlare dai pulpiti alla gente, nelle chiese e nelle piazze, quindi c'è una forza centrifuga, e io sono stato visitato in qualche modo dalla rivista Rocca, dai libri della cittadella editrice. Poi una forza centripeta che è quella che porta appunto ad Assisi, che invita ai convegni, che si pone come luogo di confronto, come crocevia di culture, come dicevamo prima, insomma. Voglio anche chiedere ancora a Chiara De Luca, che è la presidente attuale di Cittadella. La cosa che forse non a tutti è chiara è che chi aderisce, non chi va ai convegni, ma chi aderisce alla vostra, insomma, questa piccola istituzione, fa una specie di voto monastico, cioè bisogna osservare delle regole, giusto? È così? Nostro fondatore, Don Giovanni Rossi, diceva non voti ma voli. Bello. E difatti noi non parliamo di voti, ma facciamo nella notte di Natale la promessa di povertà, castità e obbedienza. Ecco, ma dunque adesso quanti siete voi interni a Cittadella, cioè il nucleo della Cittadella? Il nucleo è intorno a 20, 16, 18, perché ci sono anche gli anziani che sono i nostri gioielli. Ecco, ma mi chiedono, non è per esempio anche questo, questa sorta di monachesimo, che però non è monachesimo, che impedisce un accesso più libero e dunque anche più numeroso a questa dimensione? Ma dare la vita per un ideale credo che possa essere una proposta sempre un po' difficile, però va fatta a tutti e soltanto alcuni possono decidersi poi. Per noi, quando arrivavamo negli anni 50-60, lasciavamo il lavoro, lasciavamo la famiglia, facciamo la promessa di castità per il celibato, insomma, certo sono impegni. Ecco, ma allora chiedo anche a Tonio Dell'Olio, che ha aderito più recentemente. Lei parlava prima dell'olio, della necessità di avere accesso a linguaggi nuovi, eccetera. Sì, però non si tratta soltanto di appunto il linguaggio del web, queste cose qui. Si tratta forse di una libertà intesa diversamente oggi, una laicità intesa diversamente? Che ne pensa? Noi paghiamo in qualche modo anche lo scotto di un concilio non pienamente attuato, lo dico con questo eufemismo. La Cittadella ha avuto la grande capacità di anticipare il concilio e di viverlo pienamente nell'immediato, diciamo. Poi c'è stato una sorta di raffreddamento che ha condizionato e influenzato non poco la vita delle comunità parrocchiali, l'impostazione delle diocesi. Pensiamo al dialogo ecumenico che in Cittadella è stato particolarmente fecondo, per cui ha pagato in qualche modo lo scotto, la diffidenza. Non dimentichiamo che è stato oggetto la Cittadella anche di speciale osservazione da parte delle autorità vaticane nel corso del tempo. Questo ha sicuramente contribuito poi a creare un certo distacco. Oggi viviamo un momento particolarmente, direi, fruttuoso, fecondo, perché le parole chiave del Concilio vengono declinate nell'oggi anche con un linguaggio, grazie a Papa Francesco, ma non soltanto a lui, in maniera appunto molto più propositiva. Non dimentichiamo che gli ospiti che lei ha elencato sono quelli che invece maggiormente hanno sposato non tanto la lettera ma lo spirito del Concilio. Lo spirito del Concilio. Ecco, lei ha toccato allora un punto importante di questa difficoltà che vive oggi questa piccola istituzione, come appunto tante altre di quelle che abbiamo incontrato. Ma prima di venire a che cosa può accadere invece di positivo anche eventualmente nel nostro presente, torniamo ancora a questo momento vitale che ha vissuto la Cittadella, soprattutto intorno agli anni, credo fine anni 50, anni 60, inizio anni 70, più o meno quando c'è arrivato anche Tonio Dell'Olio, che però essendo molto giovane è arrivato dopo. Ma per esempio alla Cittadella Francesco Guccini tenne il suo primo concerto, e questa non è una cosa da poco. E allora, prima di sentire uno storico che ci faccia capire qual era il rapporto in quegli anni fra la cultura laica, la cultura cattolica, ascoltiamo anche Guccini, che proprio in Cittadella cantò una canzone che fu ritenuta molto blasfema e che invece adesso molti parroci cantano nelle liturgie, nelle loro parrocchie, Dio è morto. Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, lungo alle nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese rate, Dio è morto dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che che falsità, perché di fatte di abitudine e paura, una politica che solo fa carriera, il perbenismo interessa, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione vai col torto, un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Ma penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro che è in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per tre giorni e poi di sorte in ciò che noi crediamo, Dio è risorto. In ciò che noi vogliamo, Dio è risorto. Nel mondo che faremo, Dio è risorto. Ecco, grandi applausi a Francesco Guccini nel suo forse primo, uno, comunque uno dei primi concerti alla Cittadella ad Assisi, Dio è morto, qui c'è una critica della civiltà come si faceva in quei tempi, c'è un desiderio di verità che emerge molto forte anche all'interno del mondo cristiano e appunto di questo vogliamo parlare anche con Guido Krains, che è uno storico dell'Italia contemporanea e che nel Paese mancato, nel suo libro che parla appunto del periodo dal miracolo economico agli anni Ottanta, cita anche questa esperienza della Cittadella. Buongiorno Guido Krains. Buongiorno. Allora, dunque, l'Italia di quegli anni, questa contrapposizione che per certi versi era frontale tra mondo cattolico e mondo civile, in realtà qua e là trovava una sua unità. Beh, c'è stato il Concilio, nel senso che ha totalmente ragione Dell'Olio. Esatto, sì. Cioè la Cittadella ha anticipato il Concilio in una chiesa italiana che era molto più arretrata di altre chiese europee, sì. Cioè, nel senso che la chiesa italiana arriva al concilio e i consigli di vota dei vescovi sono un'antologia di arretratezza rispetto alla chiesa. Ha una grande forza dal concilio e da quella straordinaria enciclica che è la Pacem in Terris, dove il dialogo è teorizzato. Papa Giovanni distingue fra l'errore e l'errante, beh, è lo spirito che ha animato la Cittadella, è quello spirito lì. La teoria erronea non impedisce il dialogo con chi crede, si riferisce a quella teoria, ma può operare per il bene comune. Quindi la Pacem in Terris, che si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà, è naturalmente una straordinaria apertura, uno straordinario slancio, e si prosegue per un po', anche diciamo una enciclica successiva, un'enciclica di Paolo VI, la Populorum Progressio, che molto apre una discussione. Noi, prima è stato citato quel convegno, quella occasione in cui Guccini canta, ma quella sì. L'occasione aveva come tema la violenza dei cristiani, mm. È un tema enorme che era, naturalmente nasceva dalla riflessione della Chiesa dell'America Latina, di Elder Camara e altri, ma era nata anche da una discussione, da una interpretazione sulla Populorum Progressio, che condannava la violenza tranne in casi in cui si fosse di fronte alla disumanità, eccetera. Beh, insomma, la storia dell'America Latina diceva che quello era, insomma. In più la grande discussione che gira sulle pagine di Rocca, che diede un grande spazio a quel convegno, ovviamente, giustamente, cioè gli diede il rilievo che doveva avere, era naturalmente la riflessione, la discussione di quel tempo, dove sta la violenza nella società che opprime, nell'oppressore, cioè una riflessione su questi temi ad alto livello, voglio dire. Ecco, questo testo del Dio è morto dice tutta questa discussione, questo fervore, ed anche appunto per questo è un testo che rimane, che viene ripreso in qualche ambiente cattolico, perché è la morte di un certo Dio, ma, dice Guccini, in ciò che noi crediamo Dio è risorto. E questa è nel mondo che faremo Dio è risorto, quindi c'era lo spirito, l'ottimismo, la canzone del 65 viene portata a successo nel 67 dai Nomadi, ma lì c'è, diciamo, in qualche modo lo spirito del 68 sta lì, diciamo, sostanzialmente la critica al consumismo, la critica alla politica come carriera, e al tempo stesso nel mondo che faremo di risorto. Senta, che cosa è successo dopo? Perché è come se le due componenti, allora c'erano appunto da una parte mondo operaio, dall'altra sinistra cattolica, si fossero fossero di nuovo, forse non si chiamavano più così, ma si fossero di nuovo divaricate. Il mondo laico ha preso la sua strada, il mondo cattolico, appunto il concilio, non è stato compiuto fino in fondo, non è stato sostenuto fino in fondo. C'è stata una sorta di divaricazione di nuovo, no? Fra queste due realtà, fino a tempi più recenti. Sì, io l'ho vissuta e devo dire che la vedo ancora come una divaricazione che è avvenuta all'interno del mondo cattolico in primo luogo, sì, nell'insieme della società italiana, voglio dire, ma credo che abbia annunciato quella discussione una causa esterna, diciamo, esterna al mondo cattolico, esterna alle componenti della Chiesa, esterna al Concilio, eccetera, cioè la radicalizzazione brutale che ha lo scontro politico in Italia nei primi anni 70. Quello vale per tantissimi altri aspetti. Il clima, diciamo, nel paese successivo a Piazza Fontana radicalizza anche una discussione della magistratura che aveva cominciato ad avviarsi, cioè in qualche modo quella radicalizzazione stringe i tempi, impedisce una normale, una evoluzione che era naturalmente di contrasto, di conflitto. Rocca ha questo merito di dare spazio anche a posizioni più aperte, ad esempio a posizioni diverse ovviamente rispetto al divorzio, ad esempio un primo banco di prova, Rocca è molto compatta nell'essere contro l'estremizzazione che i promotori del referendum volevano, poi c'è una discussione molto aperta in cui ci sono anche posizioni, diciamo, diverse da quelle di Raniero Lavalle, che ovviamente sosterrà il no, cioè sosterrà il mantenimento del divorzio. Ma la prima preoccupazione, fra l'altro anche di figure come Scopola, che poi sarà anche lui nel comitato per il no, è soprattutto è un disastro che si faccia il referendum, che ci sia una contrapposizione, una radicalizzazione della contrapposizione fra laici e cattolici, quindi una polemica in primo luogo su questo e poi su altri temi. Naturalmente, ecco, finché è possibile in qualche modo una discussione che permette degli spazi, che ha dei tempi, che non impone delle cesure, delle accelerazioni, l'evoluzione vince. E anche in fondo anche la discussione sugli esiti del Concilio forse poteva avere questo spazio, insomma quel grande ruolo che Rocca aveva, diciamo, ai miei occhi, perlomeno non sono mai stato ad Assisi, quindi lo vedevo un po' da lontano, diciamo. Non è mai stato ad Assisi? No, a un convegno della città. Mi pareva strano. No, intendevo. Sì, ho capito. Parlavamo di quella. Sì. Diciamo, no? È che in fondo aveva una storia precedente, come voi ricordavate, no? Quindi era esattamente quello che ci si aspettava dal mondo cattolico, noi laici ci aspettavamo in una situazione in cui fino ad allora è stato molto chiuso, e in più non era un frutto estemporaneo della contestazione, aveva una sua storia, una sua evoluzione, era a suo modo una istituzione, lo dico in senso, no, in senso alto, diciamo, in senso non negativo, diciamo, e questo a un certo punto inizia un pochino a mancare, ecco, nel momento in cui c'è questo scontro. Ecco, adesso vediamo appunto che cosa è successo poi da quel punto in poi. Però io volevo anche ricordare che tra l'altro è stata allestita una mostra quest'anno molto, molto importante, che anche Pierpaolo Pasolini all'inizio degli anni 60 partecipò a un convegno organizzato alla Cittadella, e da questa sua esperienza, leggendo la notte un Vangelo che aveva trovato nel comodino, gli venne l'idea di realizzare il Vangelo secondo Matteo. Ascoltiamo brevemente una registrazione del tempo in cui in un'intervista racconta quella specie di folgorazione che ebbe in questa lettura notturna. Ero ad Assisi, ospite della Procività Cristiana, che mi aveva invitato lì a dibattere il film Macattone. Mentre stavo lì nel pomeriggio, è arrivato improvvisamente ad Assisi Papa Giovanni XXIII, che ha bloccato il traffico. Sono rimasto chiuso in camera, non ho potuto uscire perché non era possibile uscire data la confusione delle strade, eccetera, eccetera. Allora ho preso in mano il Vangelo che i miei ospiti, un po' maliziosamente, mettono vicino al capezzale di chi dorme da loro. E ho cominciato a leggere, la terza o quarta pagina mi è venuta l'idea di fare il film. Mi sono chiesto perché lo facevo, ho intuito alcune cose che mi sono rese chiare soltanto dopo averle fatte, mettiamo il dialogo tra cattolici e marxisti, la liberazione di queste lunghe fantasie evangeliche che un po' mi ossessiona fin dall'infanzia. Nel 42 scrivevo su versi che suonavano "e tu mi chiami Cristo, oscura luce", cosa che potrei mettere appunto come, ancora come epigrafe del Vangelo. E poi mi sono chiesto come l'avrei fatto e ho scartato ogni ipotesi di ricostruzione storicistico-archeologica. Allora, questo era Pierpaolo Pasolini, che dice che maliziosamente ha trovato, gli era stato messo il Vangelo dentro il comodino. Guido Krains, allora, un intellettuale laico come Pasolini o come tanti altri, lì trovava forse una, così, un allargamento delle proprie visioni o qualcosa del genere. Dopo che cosa è successo? Allora, questa contrapposizione che si è radicalizzata, dovuta a che cosa questa radicalizzazione? Ma intanto solo una battuta su cosa voleva dire Pasolini nel 62 La Procevitate. Pasolini è all'indice per Accattone e viene chiamato a discutere Accattone. Ecco. Di lì a poco è a Rogo per l'episodio Ricotta di Rogo Paga, cioè l'episodio in cui muore un poveraccio che fa la controfigura, interpreta sulla scena uno dei ladroni nella crocifissione. Insomma, Pasolini era proprio il diavolo, diciamo. Alla Procevitate però lì può andare a discutere, ci sono le mobilizzazioni della destra, anche cattolica, contro Pasolini. La cosa straordinaria di quel clima, l'impatto che ebbe il Vangelo, nel giro di pochissimo, Pasolini può dedicarlo alla cara, buona, familiare memoria di Giovanni XXIII e quel film unifica cattolici e non cattolici. È un'occasione assolutamente straordinaria, diciamo, non era per niente scontato. Io ci vedo naturalmente la grandezza di Pasolini, ma anche la grandezza di Giovanni XXIII, se posso completare il ragionamento. Giustissimo. Ecco, quel clima solare, nel mondo che faremo Dio risorto, all'inizio degli anni 70 non c'è più. Non c'è più. C'è prima un clima, c'è lo stragismo, c'è insomma la strategia della tensione, un clima di in cui cresce, monta la paura, non la speranza, ma la paura che il nemico si sopraffa, abbia il potere di sopraffazione. Si passerà poi alla fase in cui il terrorismo cambierà colore, diciamo, sarà soprattutto il terrorismo delle Brigate Rosse, gli anni di piombo, ecco, in quegli anni, ma già in qualche modo nel clima dei primi anni 70 inizia a cambiare i termini, insomma, quella radicalizzazione dello scontro politico, ripeto, è una cosa che attraversa sia mondo laico che mondo cattolico, non è dovuta solo, a mio avviso, alle resistenze che sono poi fortissime, con Paolo VI alla prosecuzione, diciamo, no, del concilio adesso sono dibattiti che voi conoscete, che avete praticato e discusso molto, molto meglio di me, insomma, ma ecco, non è solo questo, anche se questo certamente è lui. Senta, però Krains, le chiedo un'ultima cosa, dopo ritorniamo ai nostri ospiti di Cittadella, così, anche prescindendo appunto dall'esperienza della Cittadella, lei oggi come vede questo dialogo mondo laico, mondo cattolico, a parte che forse non si possono neanche più usare queste due parole per indicare le cose che si indicavano un tempo, come vede oggi che c'è invece, come dire, sembrerebbe un interesse reciproco, ma c'è qualche stonatura di fondo, qual è la sua impressione? Ma guardi, intanto c'è un problema, c'è una premessa che sintetizza in modo brutale, insomma. Allora noi credemmo che lo scontro vero all'interno del mondo cattolico fosse fra conservazione e progressismo, diciamo. In realtà quello che stava succedendo e riguardava la stragrande maggioranza dei cattolici era quella laicizzazione senza valori di cui parlava Pasolini, visto che di Pasolini abbiamo parlato. Noi ci colpì allora quando leggemmo un saggio di un sociologo cattolico, Burgalassi, che diceva che i profetici, i carismatici, il dissenso cattolico era il 5%, ci sembrò che mi minimizzasse molto, in realtà forse era perfino una stima generosa, nel senso che il grosso del processo era di altro tipo, e questo vale anche adesso. Beh, io ci trovo però, visto che appunto abbiamo parlato di un pontefice, Giovanni XXIII, rispetto a Giovanni XXIII che dice condannare l'errore ma non l'errante, come salto di dialogo, ma una forza a mio avviso assolutamente analoga come forza rivoluzionaria, quando Papa Francesco dice fare peccato significa agire contro la propria coscienza. Qui c'è una chiave, secondo me, di dialogo fra cattolici e non cattolici straordinaria. Però forse c'è anche un forte dialogo fra cattolici di un certo tipo e cattolici di un altro, ma i non cattolici o i non credenti certamente sono attratti da questa figura, però è come se avessero una qualche resistenza da un'altra parte. Sì, perché quello che dall'altra parte che cos'è secondo lei? Secondo me è questa tentazione a una secolarizzazione senza valori, a questo fastidio per la radicalità dei valori. Forse avevo in mente come retropensiero che comunque permane una ignoranza, diciamo, del fatto religioso che non è colmabile dalla fascinazione neppure di un papa come questo, no, questo per cui fatto, si fanno dei cortocircuiti, si prendono delle scorciatoie, qualcosa del genere. Io la ringrazio molto Guido Krainz per il suo intervento, perché ci ha chiarito molte cose, e la saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. E torniamo in studio con innanzitutto dunque Tonio Dell'Olio, ancora con noi? Sì. Certo. Ecco, che rapidamente sulle parole di Krainz, Dell'Olio. Penso davvero che il perimetro entro il quale si giocava la scommessa della cittadella è stato tracciato molto bene. La posta in palio non era tanto un progressismo da giocarsi a tutti i costi, quanto osare il Vangelo, cioè scommettere su tutto questo, ritornare al Gesù Cristo che incontra i margini, la samaritana, il pubblicano, i lebrosi, no? Cioè ciò che è visto come più distante dal mondo monolitico religioso del tempo. E su questi paradigmi in qualche modo la cittadella ha costruito tutta la propria azione, ripeto, non soltanto i convegni ma anche l'attività della casa editrice. Io ho conosciuto la teologia della liberazione nelle traduzioni che ne ha fatto la cittadella editrice in Italia, la rivista Rocca e quant'altro. Ecco, tra l'altro appunto abbiamo citato solo di sfuggita, ma la cittadella editrice è ancora una editrice molto viva, molto attiva, così come la rivista Rocca, una rivista da frequentare per così anche la prontezza di cogliere certi temi. Ma poi insomma torneremo sulla urgenza di riaprire alcune questioni, però c'era una sezione delle tantissime attività della cittadella che non volevo passare sotto silenzio, perché anche l'aspetto artistico, non soltanto il dialogo con gli intellettuali ma il dialogo con, appunto abbiamo visto Pasolini, ma anche proprio la pittura, l'arte visiva è stata una componente importante. Allora noi abbiamo con noi a Perugia Anna Nabot, che è la responsabile della Galleria della Cittadella. Buongiorno Anna Nabot. Buongiorno. Allora, la Galleria d'Arte contiene delle opere molto importanti, tra cui le 58 incisioni che costituiscono il Miserere di Georges Rouault, e poi sì, delle tele di De Chirico, Domenico Cantatore, Carlo Carrà, William Congdon, che abbiamo voluto mettere anche sulla copertina della scheda di oggi. Ecco, come mai questa attenzione all'arte? Come mai in origine e adesso come continua? Sì, nella idea del nostro fondatore e anche nella nostra, l'arte fa parte intanto dell'accoglienza di chi viene in cittadella. Devi trovarti bene, cioè la bellezza ti parla, ti aiuta ad elevarti e ti parla del divino. E possiamo dire anche perché gli artisti, come dirà Papa Paolo VI nel suo storico discorso alla Cappella Sistina, la vostra arte è proprio quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità. Ecco, Don Giovanni è fiducioso nei riguardi degli artisti, che siano credenti o non credenti o in difficoltà di fede, e a loro propone una cosa avanguardistica: ritornate al soggetto Gesù Cristo, perché Gesù Cristo, e queste sono parole che dirà Pasolini, ha realizzato talmente in pienezza la sua umanità da essere modello per tutti gli uomini. Anzi, Pasolini disse: non credo che Gesù Cristo sia Dio, ma ha realizzato un'umanità così alta da essere divino. Ecco, e quindi però oggi con linguaggio più contemporaneo si potrebbe dire che l'attenzione all'umano, l'attenzione alla forma dell'umano è sufficiente di per sé per i creatori d'arte, cioè cogliere, certamente, nell'umanità dell'uomo quello che vi è da salvare, ma anche quello che vi è di debole, di malato, di ferito. Sì. E quindi in questo senso anche un autore come William Congdon, che appunto coglie, sì, ad Assisi realizzò molte opere di carattere religioso, ma voglio dire la sua scrittura di colore, di forma, coglie molto le ferite della natura, dell'umanità. Certamente, lui viene, e in fondo il suo, diciamo, la sua cosiddetta conversione avviene proprio avendo avuto un confronto drammatico con la guerra. Dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, a cui lui partecipa al seguito dell'esercito americano per soccorrere i feriti, lo porta anche a Bergen-Belsen. Quindi lo porta di fronte a questo dramma terribile dell'umanità. Quando ritornerà a New York, dove era già affermato, aveva esposto con Rothko, con Pollock, era di questa scuola americana, sì, insomma, dell'espressionismo astratto. Ecco, lui dice: sarà la mia prima conversione quella di lasciare la sua casa, il suo palazzo, e di andare a abitare vicino alla Bowery, dove avrà la percezione di un'altra realtà, anche della città di New York, quella povera, quella dei sofferenti, quelli che morivano anche per strada, no? Quindi chi viene a visitare la cittadella trova anche una galleria d'arte molto nutrita. Sì. Tra l'altro avete persone anche giovani che lavorano con voi e che quindi, insomma, cercano di arricchire sempre questo patrimonio. Sì, certamente. Per esempio quest'anno noi abbiamo fatto una mostra, facciamo delle mostre, ecco. Allora abbiamo fatto una mostra, proprio perché siamo negli anni del cinquantesimo del Concilio, sì, e abbiamo fatto un primo round della mostra, che è sul Concilio Vaticano II e la figura di Giovanni XXIII. E il prossimo anno, cioè è sempre in occasione del Corso di Studi Cristiani, che tra l'altro è la più grossa manifestazione della nostra associazione, tratteremo la figura invece di Paolo VI nell'ambito del Concilio. Quindi andate di Papa in Papa. Di Papa, ma quest'anno, abbiamo appena detto che l'umanità di chiunque è ciò che conta. Però. Sì, però in questo rapporto ecco, con gli artisti, perché sì, per esempio abbiamo portato Manzù, avevamo Bodini. Abbiamo chiamato anche artisti contemporanei, Mangiaterra, Carli, eccetera, Verdi, ecco, che sì, hanno toccato questa. Ecco, io però volevo chiedere, andando verso la chiusura, ancora sì, a Tonio Dell'Olio e Chiara De Luca, ancora una volta, cioè questi tempi esigono non solo un linguaggio nuovo, una forza nuova. Per esempio, Tonio Dell'Olio, come dicevamo prima, fa parte dell'associazione Libera contro le mafie e viaggia in tutto il mondo per perseguire, no, i canali della corruzione, della delinquenza organizzata, eccetera, eccetera, e per cercare di offrire delle alternative. Ecco, come stanno insieme questa, che sembra una cosa che è una cosa molto contemporanea, molto legata al nostro tempo, a una realtà un po' più antica, come sembra essere quella della cittadella, dell'Olio? Non sa quanto io le voglio bene per questa domanda che mi ha fatto, perché mi permette invece di diradare dalle nebbie questa cosa, nel senso che io non sento di cambiare mestiere tra cittadella e Libera, al ecco, contrario, le sento in perfetta unità, continuità. Io continuo a ritenere che sia la cultura a svegliare le coscienze. Se non ci sono valori in qualche modo ad irrobustire la nostra riflessione, il declivio sarà sempre quello, appunto, della corruzione in tutti gli aspetti, non soltanto quella economica, no? Corrompere significa sfaldarsi in qualche modo. La cittadella da questo punto di vista è un'alleata di ferro dell'attività di Libera e di chiunque all'interno di questo paese e del mondo intero si sforza in qualche modo di qualizzare la società civile. Però questa è una sua percezione, però in genere chi pensa appunto alla lotta contro le mafie e a Cittadella, forse anche proprio perché è ad Assisi, perché è nata nel 39, eccetera, eccetera, pensa a due realtà diverse. Allora come far sì che effettivamente sia un linguaggio unificato quello che si parla lì dentro? Dal 6 all'8 febbraio prossimo, Generazione in Dialogo, che è l'erede del convegno dei giovani, sarà fatto appunto in collaborazione con Libera e, rivolgendosi in maniera particolare ai giovani, parla dell'uso consapevole del denaro, che è uno di quei temi che si pone a metà strada tra una riflessione etica e quindi anche biblica, cristiana, e nello stesso tempo con un forte spessore, come dire, sociale. Mafia capitale, tutti i temi che in qualche modo ci attraversano anche drammaticamente in questi giorni hanno a che fare con il denaro, per cui io penso che dobbiamo incrociare proprio tematiche, riflessioni che possano risvegliare l'attualità anche del ruolo che la cittadella, la Procività dei Cristiana, continua a giocare nell'oggi. Senta, ci dà un'idea dell'olio di questo percorso delle mafie? Perché appunto lei poi, noi tanto la cerchiamo, lei sta in America Latina, in Africa, ovunque sta inseguendo questi. Si può ricostruire una mappa di questa corruzione tremenda che va appunto dalle grandi capitali ai grandi centri commerciali fino però alle piccole corruzioni locali? Come fate? Come organizzate il vostro lavoro? Chiarisco che non faccio l'investigatore o il magistrato, ma al contrario, inseguo l'antimafia piuttosto che la mafia, nel senso di mettere insieme... Però i percorsi sono gli stessi. Sì, certo, sì, certo, certo. Per mettere insieme, però, riannodare i fili di coloro che si oppongono dal basso a quel tipo di cultura, perché si tratta di una cultura. E quindi, quando noi pensiamo mafia, pensiamo sempre a criminalità organizzata. Invece proprio l'ultima inchiesta romana ci dà il senso che mafia è sistema piuttosto, e quindi ancora di più va affrontato in termini culturali, no? Smontare in qualche modo i substrati di riflessione e di devianza che portano poi appunto alla corruzione e al crimine organizzato. E poi se si tratta di seguire fisicamente in una mappa tutto questo, bisognerebbe proprio seguire ad esempio il narcotraffico dalla sua coltivazione alla raffinazione e ai trasporti illeciti e ai traffici appunto che attraversano confini, il traffico di esseri umani, idem, il traffico di armi anche, quindi in qualche modo c'è una mappa fisica e c'è una mappa anche concettuale, come dire, delle mafie. Ecco, a Chiara De Luca invece voglio restare su questo tema e le voglio chiedere, lei personalmente, che è appunto della prima generazione, diciamo, di generazioni non della stessa di Dell'Olio, di questa esperienza, ecco, avverte una fatica delle persone nuove che vi raggiungono a mettere insieme questi due linguaggi, queste due dimensioni? Ma io credo che siano invece due dimensioni essenziali per chi si vuole impegnare per cambiare il mondo. Che lei creda questo è chiaro, però mi chiedo se invece le persone non vi percepiscono in maniera un po' scissa. Ma chi si avvicina per crescere, per fare meglio, per impegnarsi di più, credo che senta nella cittadella questa fonte un po' che è il Cristo, no? Che ci dà la forza, ci dà il coraggio, ci dà l'energia per credere, continuare a credere, per sperare. E quindi attingere di lì, ecco, con un po' di silenzio, un po' di preghiera, un po' di meditazione. E certo, noi siamo un piccolo gruppo, però non si può sapere se proprio questa osmosi che ci può essere tra l'impegno più, diciamo, fondato sulla fede e l'impegno fondato sul andare contro questa cultura, che poi l'impegno culturale pure è alla radice della città. E oggi la cultura della mafia, la cultura del consumismo, la cultura del razzismo, sono tutte realtà che noi dobbiamo in qualche modo cercare di cambiare, a cui andare incontro, in dialogo, ma proprio per cambiarle. Allora io vi ringrazio tutti, Tonio Dell'Olio, Chiara De Luca, Anna Nabot, Guido Crainzi, auguro a tutti una buona giornata, buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie. E ricordo che domani mattina e la prossima domenica ci concediamo una pausa dal mondo contemporaneo andando a rileggere uno dei più antichi poemi dell'umanità, l'epopea di Gilgamesh, dove passione e morte, umanità e divinità sembrano prendere forma in distinzioni primordiali. Ricordo chi fa con me il programma: Paolo Tagliolini, Ornella Bellucci, Benedetta Caldarulo, Irene Santori, Cristiana Munzi. Il tecnico del suono di oggi è stato Fabio Lelli. Un grazie da Gabriella Caramore e ci sentiamo domani mattina.